che l'abbiamo colto in castagna, commissario. Vedi. Carbone, prontissimo. Ma infatti, in arrivo, come si fa? Carbone, un nome, una garanzia. Quindi aglio senza l'anima, praticamente. C'è addirittura chi salta i pasti per risparmiare calorie. Questione per me incomprensibile. Giovanni, non ridere. Per lavoro viaggio moltissimo, macchina, treno, con la gastrite a top. Allora, ma guarda che parliamo pure nello stesso modo. Come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua non finiamo più. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Io passo metà della mia vita in macchina e l'altra metà la passo a cercare un lurido, fottuto posto per parcheggiarla. Trovare un parcheggio è un calvario. Mi tocca girare per ore e quando finalmente avviene il miracolo, perché di miracolo si tratta, che io vedo dall'atrio vetrato di un condominio una persona che dal movimento della mano verso la tasca pare di intuire che all'interno della tasca stessa ha un mazzo di chiavi di una macchina parcheggiata fuori, io lo punto e non lo mollo più. E allora, tu intanto vieni a piedi, stai tranquilla, per cui nessun problema. Io per fortuna ho il parcheggio del sole, quindi non mi angoscio più di tanto, ma tu pensa, Nicoletta, quanti automobilisti ogni giorno si vestono un po' come Joel ed X. Per lavoro, per commissioni personali, cercano come disperati parcheggi dipinti di blu per fare una sosta e fare quello che devono fare. Spesso non fanno una previsione dei tempi giusta e quando tornano, che succede? Tra-tran, in tutta la sua bellezza, la bella multa è lì, piazzata sul parabrezza. Vabbè, dai, già è vero, sono un po' i rischi degli automobilisti, come il nostro Joel ed X, una brutta sorpresa, ma scusami, comunque, se queste multe però le pagate subito, avete anche un po' di sconto. Perché non dici paghiamo, te mai, niente, non ti succede mai niente. Io da quando vado a piedi, magari si potrei prendere anche delle multe andando a piedi. Esatto, come è successo a Silvano da Novara. Inauguriamo oggi in maniera originale il nostro programma subito con la prima testimonianza di un ascoltatore. Silvano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Silvano, che è successo? Buongiorno. Intanto a voi, perché siamo in due, che si è dimenticato. Sì, Silvano. Buongiorno a voi. Sì, no. Buongiorno a voi. No, è una cosina che mi è successo qualche anno fa, quando ero più giovane, che improvvisamente si è messo a piovere, allora sulle strisce pedonali ho attraversato, c'era il rosso e dall'altra parte c'era un vigile che mi ha dato la multa. Stava proprio lì ad aspettare. Ero dietro una colonna, perché dall'altra parte sotto la pioggia. Appostato, ma pensa tu, fa pure l'appostamento. Silvano, quanto ha preso di multa? Perché io proprio questa non l'ho mai sentita. Parecchi anni fa. Era ancora in lire, no? No, ero ancora studente. Ah, beh, quindi tanti anni fa, chissà se un po' di anni. Insomma, fa, non ci sono più i vigili di una volta. Ecco, esatto. No, eravamo io e il figlio del questore. E comunque, allora, Silvano, a lei è capitato questo? Ha preso la multa a piedi, è passato appunto sulle strisce quando il semaforo indicava rosso. Oggi parliamo di, come dire, un'altra situazione, però poi interpelleremo il nostro ospite anche sulla situazione che è capitata a Silvano e vogliamo commentare la notizia appunto che è circolata in questi giorni sui giornali. Sai, Nicoletta, cosa ha detto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Che sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere motivo di multa. Oh, e allora adesso sai che facciamo? La piazziamo lì alle 8 del mattino, ce la teniamo tutta la giornata e tanto saremo sicuri che praticamente né il vigile né l'ausiliario del traffico potrà contestarci alcunché. Intanto lanciamo questa proposta e cerchiamo di parlarne tra poco con il nostro esperto che ci darà tutto che, bene come va la faccenda, ma intanto invitiamo i nostri ascoltatori a fare come Silvano e quindi a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, multe dintorni, ma anche per chi non vuole prendere le multe e vive in città, perché no, piedi e dintorni, ci sono tante cose che si possono vedere e fare mentre si cammina per andare a fare o commissioni o al lavoro, molti benefici con una riduzione sensibile dei denari. Allora, questo parere del Ministero dei Trasporti ha acceso subito le speranze di molti, ma a noi è sembrato onestamente tutto fin troppo facile. Allora, oltre a sentire come la pensano i nostri ascoltatori, vorrei io un parere di un esperto, perché qui stiamo già tutti a sognare, non vorrei che ci dobbiamo invece svegliare con una doccia fredda. Allora, buongiorno a Silvio Scotti, ex vicecomandante della Polizia Locale di Milano, già comandante anche della Polizia Locale di Monza, tanti ex, ma rimane sempre uno degli esperti più autorevoli del Sole 24 Ore sui temi legati al codice della strada. Dottor Scotti, buongiorno e benvenuto. Bentrovati. Buongiorno. Allora, intanto dottor Scotti non è quello del riso, no. E quindi sgombriamo subito il campo da ogni equivoco. Quindi vuol dire che se un vigile urbano o un ausiliario del traffico passa davanti ad un'auto che sosta all'interno delle strisce blu e ha, come dire, pagato magari per un'ora ma è già lì da un paio d'ore, non possono più elevare delle contravvenzioni queste figure? Dunque, il parere del Ministero va effettivamente in questo senso. Diciamo subito che non è una novità, perché è un parere datato 22 marzo del 2010, numero 25783. E dopo 4 anni ancora parliamo di questo parere? Sì, esatto. Perché ovviamente c'è stato un focus, un'attenzione particolare dei media su questo parere, ed ecco che quindi ci ritroviamo a confrontarci con questa situazione. Ecco, innanzitutto siamo di fronte a un parere, non è una normativa, non è una circolare e quindi ovviamente vale come tale. A mio avviso è un parere che può essere anche così contrastato, nel senso che esistono buone argomentazioni per dire che invece si applica comunque la sanzione. In particolar modo ci sono due sentenze della Cassazione, una del 2009 e l'altra del 2006, che invece dicono che la sanzione va applicata. Ma non solo, abbiamo anche una sentenza della Corte dei Conti della Regione Lazio, la numero 888 del 2012, che addirittura condanna per danno erariale una società concessionaria di parcheggi proprio perché ometteva di sanzionare la violazione e chiedeva solamente l'adempimento di quanto dovuto in relazione alla... Al permanere dell'auto sulle strisce. Hai capito, questa società chiudeva un occhio, convinta di fare però, la cosa guarda, giusta, però niente, è stata sanzionata. Le multe comunque sono troppo care, dai, sì, dica la verità. Sì, effettivamente noi abbiamo un meccanismo per cui le multe si adeguano ogni 2 anni all'aumento medio dell'Istat. Certo, ovviamente, molti stipendi non riescono a farlo, esatto, però le multe, ecco. Il problema è che probabilmente sarebbe più corretto adeguarle al potere di acquisto delle famiglie, che in alcuni casi è addirittura diminuito. A suo tempo, quando il codice fu strutturato, magari poteva avere una certa giustificazione, adesso magari il meccanismo sotto il profilo equitativo potrebbe essere rivisto. Ma mi scusi, ma perché il Ministero ha dovuto esprimere questo parere? Come mai è stato tirato in ballo? Sì, dunque, io non l'ho capita. Il parere diciamo che viene emesso dietro richiesta. Un comune si è rivolto al Ministero ponendo questo quesito e questa è stata la risposta. Però a mio avviso c'è un problema proprio di costruzione logica di questo parere, perché il parere ammette che se non pago il ticket allora bisogna applicare la sanzione. Se invece lo pago e mi fermo oltre il periodo, la sanzione non va più applicata, ma va recuperata la tariffa oraria del parcheggio. In realtà, se guardiamo dal punto di vista civilistico, il contratto si conclude nel momento in cui posteggio l'auto e ho visto le strisce blu ed è chiaramente indicato che è un posteggio a pagamento. Quindi in ogni caso esiste un vincolo contrattuale, ma non solo. Se noi andiamo a vedere la normativa citata, pare proprio che esistano entrambe le situazioni giuridiche, cioè da un lato la sanzione e dall'altra la possibilità del recupero delle somme attraverso i normali rimedi. Beh, allora speriamo che qua però si persegua una strada o un'altra. Certo che è tutto così complicato. Ma tu lo sapevi, infatti, dottor Scotti, che nel momento in cui ti metti in un parcheggio con le strisce blu stipuli un contratto con qualcuno, ma pensa te. Quante ne sa il nostro Scotti? Dottor Scotti, intanto arrivano molti messaggi al 349-238-6666 dei nostri ascoltatori che, prendendo un po' esempio da Silvano, ci stanno raccontando le multe strane che hanno preso nel corso della loro vita di automobilisti, ma anche di pedoni. Esatto, rido anche perché invece Fernanda, che è pronta all'800-24-0024, poi ci vorrà raccontare una cosa simile a quella che tu mi hai raccontato ieri, Nicoletta, che invece è capitata a te. Non alziamo ancora il velo su questo. Da chi cominciamo? Dai messaggi o dalla telefonata? Leggimi qualche messaggio. Dai, multe come nel nord Europa in base al reddito, suggerisce Sasha. Un altro ascoltatore ci scrive che a San Marino applicano già questa procedura perché sono più avanti di noi, mentre Roberto ci racconta che nel 1970 suo papà Sergio, in centro Milano, ha preso una multa di 5.000 lire per avere buttato una carta per terra. Il suo commento è: come cambiano i tempi e come cambiano anche i vigili. Io però quelli che incontro sono sempre arrabbiatissimi. Fernanda, buongiorno dalla da Monza. Da Monza, buongiorno. Buongiorno. E poi c'è buongiorno Santina. Nicoletta. Buongiorno Fernanda. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno dottor Scotti, siete grandi. Ma lei Scotti lo conosceva, Fernanda? Sì, perché io vi ascolto da sempre, tant'è che mi avete fatto... Mi è mancata da poco la mamma, da qualche mese io ascoltando la vostra radio mi è passata anche la depressione, stavo andando in depressione. Va bene Fernanda, siamo contenti di tenerle compagnia. Insomma. Non lo dica a me, non lo dica a me Nicoletta, perché siete la mia compagnia, vi ascolto giorno e notte. Grazie Fernanda. Andiamo allora alla disavventura con la macchina. Allora le racconto il mio episodio? Sì. Allora io qualche mese fa vado a farmi la spesa e torno a casa. Siccome dove abito io, qui a Carate Brianza, devi pagare anche l'aria che respiri. Non trovi un parcheggio, se non che con le borse della spesa mi sono soffermata sotto casa, proprio perché la mia residenza era qui. Certo. Per cui ho lasciato la macchina un attimo con le quattro frecce. Il pensiero di portare le borse al secondo piano, scendere dei piccoli vigili. E niente, allora io discuto con i vigili, ma senza essere maleducata. Dico: guardate, ho la mamma anziana in casa, non posso, non trovo un parcheggio. Niente da fare, 82 euro di multa. No. Se non che io mi veniva da piangere, Nicoletta. Lo credo. Ma non per gli 82 euro, per la rabbia che mi è venuta, perché dico: ma è possibile? Se non che mi reco alla caserma dei vigili per giustificare. Mi è venuta una tachicardia che, guardi, morivo, volevo chiamare il 118. Come è finita, Fernanda? Sono dovuta tornare a casa e ho pagato la multa e non ho fatto nulla. Tant'è che in quel momento ho pensato a voi e al dottor Scotti. Ecco. Allora, il dottor Scotti al telefono. Esatto, dottor Scotti. Esatto, qua un mazzo. Come la mettiamo? Che è un mazzo di fiori a Fernanda, glielo dobbiamo mandare in primo luogo. Certo, perché dobbiamo recuperare questa direi storia. Senz'altro, direi senz'altro. Guardate, allora è chiaro che bisognerebbe esaminare la situazione del momento. Tuttavia, laddove si posteggia in divieto di sosta, esiste anche una possibilità per la gente, cioè pochi lo sanno. Ma in ogni caso, no? Gli agenti, sulla base dell'articolo 43,5 del traffico, possono anche concedere delle piccole deroghe alla regolamentazione della circolazione laddove ne ravvisino la necessità. Quindi è chiaro che qua siamo di fronte ad un giudizio soggettivo degli agenti. È chiaro che, così come la racconta la signora Fernanda, c'era effettivamente un'esigenza e si poteva comunque derogare legalmente alla disciplina della sosta, ovviamente per un periodo di tempo limitatissimo, perché anche poi bisogna vedere le condizioni della strada, se passavano autobus, se blocca qualche situazione particolare di fluidità della circolazione. Però ecco, esisteva questa possibilità, mi spiace che non sia stato utilizzato. Quindi dottor Scotti, mi scusi, lei mi sta dicendo che i vigili ogni tanto un occhio lo possono potrebbero chiudere. Mettersi una mano sul cuore. Guardi, non è una mano sul cuore, questa qui è una norma che è stata fortemente voluta dalla categoria perché molte volte la situazione concreta richiede proprio di derogare dalla disciplina proprio per evitare problemi alla circolazione stessa. È chiaro che anche l'utente della strada può avere una necessità in quel momento che è ben superiore come valore sociale rispetto magari alla disciplina della sosta, ecco. Va ovviamente bene. Sto facendo un esempio. Comunque quella di Fernanda era una situazione di qualche tempo fa, andiamo alla situazione attuale e a questa vicenda del parere del Ministero dei Trasporti, facciamo un riepilogo per chiarire la situazione a tutti e mi prendo come esempio. Devo andare a pagare una bolletta alla posta, dottor Scotti. Pago per un'ora di parcheggio dentro le strisce blu naturalmente, perché io vado alle poste di via Sassetti qua a Milano e lì lei lo sa che ci sono, no? La fila è lunga, la macchina rimane parcheggiata invece di un'ora, due ore, tra l'altro sì, anche tu in mezzo alle mie parolacce. Sì, perché tu non è che paghi solo la multa, lo so, vai a vederti il rossetto lì vicino, poi bevi il caffè. Ottimizzi, cioè, in realtà ammettiamo appunto di essere andati oltre il tempo non consentito, quello che ho pagato, no? Passa un vigile e se ne accorge. Intanto adesso la multa, la sanzione me la mette o no? E soprattutto a quanto ammonta? Perché qua c'è anche un'altra confusione su questo. Non abbiamo capito se si tratta di 25 euro, 36, di quant'è? Perché dunque, non è commisurata, immagino, alle ore in più. Che no, si no, sta, no. Allora, la sanzione è di 25 euro. Si applica per ogni periodo trascorso, però all'attualità, siccome è possibile pagare per più tempo, in realtà si applica una sanzione sola. Laddove vi sia la possibilità di operare la riduzione del 30% e quindi di pagare entro 5 giorni, la sanzione diventa di 17,50 euro. Ovviamente in questo specifico caso. Per quanto riguarda la contestazione all'attualità, non credo che ci sia la possibilità per la gente di evitare la sanzione, a meno che non siano state date specifiche disposizioni che sono di competenza dei, comuni, dei singoli dei comandi, dei diversi comuni di dare queste disposizioni, perché in realtà siamo di fronte, ripeto, ad un parere e non ad una normativa immediatamente. Sarà presente anche un parere, come mi viene sempre di chiamarla comandante Scotti, ma non devo più farlo. No, assolutamente. Chiamalo Silvio. Lo chiamo Silvio. No, tra l'altro io allora intanto continuiamo a come dire, invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, non solo per raccontarci le multe più strane che hanno preso, quelle che li hanno fatti arrabbiare di più, ma anche se qualche multa è arrivata proprio per un parcheggio non proprio regolare. Però lei dice sarà anche un parere del Ministero dei Trasporti, ma quale associazione dei consumatori hanno preso la palla al balzo? Il Codacons ieri non si è fatto mancare l'occasione e ha tuonato: multe degli ultimi 60 giorni vanno tutte annullate dai comuni, tutti i comuni d'Italia restituiscano i soldi almeno dal 2010 ad oggi. Ma che faranno invece questi sindaci, Scotti? Beh, è chiaro che questo rientra nell'autonomia di ogni singolo comune e ovviamente mi astengo dal consigliare, però all'attualità è chiaro che ci saranno tutta una serie di ricorsi. Questi ricorsi riguarderanno sia il prefetto sia il giudice di pace, perché chiaramente è comunque un parere che arriva dal Ministero, non è un parere espresso da un privato, ma ovviamente si tratta di un parere qualificato. Ripeto, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa, tuttavia sappiamo anche che la giurisprudenza può anche mutare. Tuttavia all'attualità forse se ci fosse un chiarimento da parte degli organi centrali sarebbe anche meglio, questo per uniformare il comportamento, perché non è possibile che un cittadino in una città rischi la sanzione vera e propria e nell'altra invece può pagare la solamente differenza, il recupero delle infatti. Cioè è una questione anche di chiarezza. Ovvio. Nei confronti del cittadino. Dottor Scotti, anche lei immagino avrà preso qualche multa, qual è la multa che le è pesata di più? Se l'è autotolta? No, allora, ricordo che addirittura una volta l'autovettura mi fu rimossa. Si era trattato. Si è presentato di una... lì con lei non no, sa chi sono io? Assolutamente, mi sono presentato e siccome mi hanno riconosciuto ho preteso di pagare immediatamente, ci mancherebbe altro. Comunque si è trattato di un caso, perché io mi muovo sempre con mezzi pubblici, in particolare al lavoro a Milano arrivo col treno, prendo la metropolitana, qualche rara volta la bicicletta. Quindi ma ecco... dove l'aveva lasciata sta macchina? Perché addirittura la rimozione deve averla combinata grossa. No, purtroppo dopo l'avevo messa in una zona dove che conoscevo poco, dove il cartello di rimozione forzata era appena stato messo, quindi perché era stata deviata la linea di un autobus e c'erano tutti i motivi per mettere il divieto di sosta con rimozione forzata. La forza dell'abitudine, uno abituato a posteggiare lì, non ho fatto attenzione al cartello, ma al di là di tutto la mia attenzione era assolutamente dovuta, perché bisogna prestare certo. attenzione. Però, e quindi ho pagato il dovuto interamente. Allora, non so se riusciamo a sentirla. Intanto abbiamo salutare. Santina da Bergamo, subito dopo Giampaolo da Treviso. Allora facciamo così, la Deborah fa le borsa, veloce, e poi noi torniamo a parlare di multe e naturalmente vogliamo anche stuzzicare il vostro interesse. Come ha detto il dottor Scotti, io prendo i mezzi pubblici, vado in bicicletta, c'è anche gente come me che invece non va in bici ma va a piedi, questa potrebbe essere un'alternativa, una soluzione per evitare di prendere multe, una buona soluzione per il cuore e per i denari. Cuore e denari. Che c'è? Lei non ha visto il cartello? Quale cartello? Il limite di velocità nell'abitato è di 50 km l'ora. Beh, a che velocità andavo? Non ci ho fatto neppure caso. No? E allora glielo dico io. Lei andava a 65 km l'ora. Per 15 km non è mica un caso grave. È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto. Ma tu vuoi scherzare? Lontana da me l'idea di scherzare. Lei andava a 65 km l'ora e accelerava sempre di più. E là c'è una curva molto pericolosa. Sa come è denominata quella curva? Curva della morte. Ah, non mi seccare. Sono 15 anni che io faccio questa strada a tutte le velocità. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Hai sentito proprio dimostrazione di come i tempi cambino? Si chiamava ammenda qualche tempo fa, adesso abbiamo la sanzione, chiamiamola multa come vogliamo, ma a proposito di multe, voi quante ne prendete in un anno? Avete un repertorio variegato delle infrazioni oppure anche per le multe avete il tallone d'Achille, cascate sempre sulla stessa, il divieto di sosta o l'eccesso di velocità, guida senza cinture di sicurezza, questa mi raccomando fate attenzione, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Ci sono multe che peraltro costano più di altre perché c'è anche la decurtazione dei punti, allora voi chiamateci e raccontateci e commenteremo tutto questo con il nostro Silvio Scotti. Ma raccontateci anche la multa che vi è pesata di più dal punto di vista del cuore, perché vi siete sentiti ingiustamente puniti, dal punto di vista dei denari perché è stata particolarmente salata, ad esempio perché è arrivata dopo tanto tempo a casa con le maggiorazioni del caso, come è capitato a questo ascoltatore che ci scrive, no? Che ci chiede di parlare proprio dei tempi utili per il pagamento della multa a partire dalla notifica. Dottor Scotti. Sì, tra l'altro lui si riferisce ad un caso di una multa arrivata 3 anni fa. Nel frattempo, dottor Scotti, un po' le cose sono cambiate. Sì, sono cambiate le cifre, senza dubbio, perché sono state adeguate ai sensi dell'articolo 195 ed è cambiata anche la normativa, perché allora non esisteva la possibilità del pagamento scontato. Allora possiamo dire che il verbale, dal momento in cui esiste la notifica, quindi ci arriva a casa per posta oppure ci viene contestato direttamente, abbiamo 5 giorni di tempo per fruire della possibilità di pagare con il 30% di sconto. Dal sesto giorno fino al 60° giorno invece si paga il minimo edittale, cioè la sanzione sulla quale si era operato il 30% di sconto. Ricordiamo anche che se il termine scade in un giorno festivo è di diritto prorogato al giorno successivo non festivo. Dopo il 60° giorno la multa sale ancora, più o meno raddoppia, in realtà si applica il metà del massimo, ma come cifra di riferimento, come ordine di grandezza, possiamo dare il doppio del pagamento in misura ridotta. E questa cifra, laddove venisse inserita in una cartella esattoriale, quindi ci fosse il ruolo, venisse trasmessa ad Equitalia, viene maggiorato ulteriormente, oltre che delle spese, anche del 10% semestrale, quindi 20% annuale, sulla cifra della sanzione. Quindi può, siccome esistono 5 anni di tempo per arrivare, diciamo così, alla cartella esattoriale, uno si può trovare tranquillamente un aumento anche dell'80-90% proprio in virtù di queste maggiorazioni di legge. Quanto è arrivato a questo ascoltatore? Adesso stavo cercando di capire quanto fosse moltiplicata questa multa, non arrivo, però insomma credo che sia esattamente capitato quello che indicava. Intanto se tu vuoi Scotti. Cercarlo, io vado a salutare Santina che ci chiama da Bergamo e subito dopo Giorgio dalla provincia di Rimini. Santina, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho un quesito da chiedere al vostro esperto. Allora, dove abito io c'è una montagna, hanno fatto un parcheggio a pagamento di 2 euro con un gratta e sosta. Sì. Tu devi prendere il biglietto in paese, andare in montagna, parcheggiare e grattare la data del giorno in cui tu arrivi. Sì. Solo che questi parcheggi sono limitati. Tanti parcheggiano fuori, parcheggiano sulla strada dove c'è il divieto, perché d'altronde se uno viene da Milano, ok, non butta via una giornata, si gratta il suo gratta e sosta, e in divieto di sosta prendono la multa, perché logicamente essendo in divieto di sosta, certo, io ho pagato il bigliettino, però la devono pagare la multa, possono fare ricorso? Santina, dottor Scotti, mi pare che la logica allora, sia... Questo è abbastanza evidente, sono al di fuori dell'area dove è consentito il parcheggio. Se c'è il divieto di sosta c'è poco da fare, se non ci fosse nulla... C'è poco da fare. Poi la possibilità del ricorso, chiunque può ricorrere, sempre. È chiaro che è giusto farlo con ragionevolezza e quando si hanno dei gravi motivi per ricorrere o quando comunque il comportamento in un modo o nell'altro poteva essere giustificato. Andiamo a fare un viaggetto, Nicoletta, prima di sentire Giorgio dalla provincia di Rimini. Ti voglio portare a Firenze. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. Che in realtà potrebbe anche essere Rimini, no? Perché adesso più o meno la distanza che dobbiamo percorrere è quella. Sì, vogliamo fare due conti a proposito Facciamoli. Di Firenze, ma di Rimini in generale. Sì. Con questo sconto converrebbe essere indisciplinati? La multa per sosta selvaggia, se pagata entro i 5 giorni, modalità che mi permette di avere quello sconto del 30%, diventa più vantaggiosa del parcheggio a pagamento. Ecco, io ti ho portata in gita fuori porta e tu subito track che te ne inventi una. Senti, sì, però io dove vuoi andare a parare? No, non vorrei andare a parare da nessuna parte, perché il problema molte, tu lo sai, l'ho risolto andando a piedi, utilizzando i mezzi pubblici. Mi rendo conto che sia una scelta che possono fare persone che vivono e lavorano nella stessa città, ma io torno a Firenze. Partiamo io e te. Che facciamo? Parcheggiamo la macchina, tu non hai gli spiccioli, io sono sempre in bolletta, usciamo e diciamo, va bene, dai, visitiamo una mostra, un museo, andiamo a pagare una bolletta, a comprarci un rossetto, stiamo lì 6 o 7 ore, visitiamo la città, poi torniamo e c'è la multa. Sì. Quanto sarà, dottor Scotti, questa multa? Abbiamo parcheggiato nelle strisce blu a Firenze. Renzi è stato buono oppure... Ripeto, dovrei vedere la regolamentazione del parcheggio, però se più non o avete meno, pagato, dai. Se non avete pagato completamente, allora no, niente. Scatta una sanzione di 41 euro. Va bene. Ah, se invece avete pagato la prima frazione e non la frazione successiva, si applica invece la sanzione di 25 euro abbattuta del 30% se pagata. Però, eccola là, lui ce l'ha già detto appunto dello sconto. Sì, ho capito, va bene. E quindi alla fine io, a me conviene se sto a lungo lì. No. Perché? Faccia due conti. No, ma io faccio i conti, però vede, esiste la legge 15 maggio del 97. Mamma mia, le sa tutte questo qua, eh? Ah, sì, sì. Scusate se adesso dico dei numeri, comunque è il comma 132 dell'articolo 17, quindi fa capire quanto sia complicato questo articolo 17, che dice che i gestori dei parcheggi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti. Ce lo segnalano alcuni ascoltatori. Qualche gestore mette sul parabrezza l'avviso di pagamento. Hai pagato solo un'ora, per tutte le altre passa da me che saldi. Esatto. Uno. E quindi oltre alla sanzione... Oltre alla sanzione c'è anche questa, questo pagamento delle che, tra l'altro, potrebbe essere comprensivo anche di penali, questo dipende da come da che tipo di contratto si è concluso nel momento. In realtà quello che noi volevamo arrivare a dire, dottor Scotti, è che magari, siccome non sempre i vigili passeranno gli ausiliari del traffico, qualcuno questo tentativo lo fa, di pagare un'ora e poi quel che succede, succede. Una volta pago una multa, una volta vado a saldare tutto il conto dal gestore, altre 10 volte mi va bene, pago un'ora e ce ne sto 5. Non è che vogliamo fare nessun suggerimento, però... Beh, ecco, io credo che dal punto di vista sia l'abbiamo messa in imbarazzo della legalità, cioè, quindi secondo me alla fine l'atteggiamento paga, l'atteggiamento infatti è il messaggio che ci manda un ascoltatore che ci scrive: perché non promuoviamo un po' la cultura del rispetto delle regole invece che quella di contestare le sanzioni? Rispetto delle regole che viene ripreso da Anna, che ci scrive che suo papà è su una sedia a rotelle, trova sempre auto parcheggiate sullo scivolo sotto casa, quindi ci sono tante persone che non rispettano le regole e mettono in grande difficoltà altre persone. Però c'è anche il caso che mi raccontavi tu ieri, Nicoletta, cioè tu che sei scesa dall'auto parcheggiata nel parcheggio blu, sei andata a fare il tagliandino, in quel secondo passa il vigile che le ha messo la multa. Veramente era un ausiliario della sosta, che vanno sempre in due, perché tra l'altro sono sempre in coppia come carabinieri. Scusi, dottor Scotti, guardi, non glielo saprei spiegare. So che in alcuni vedi casi, vedi che l'ho trovato, ho fatto una domanda, sono stati messi in coppia perché soprattutto nel primo periodo in cui c'erano questi ausiliari erano molto così frequenti discussioni e in alcuni casi si arrivava proprio alla diatriba vera e propria, e quindi ci vuole uno che difenda anche l'altro. Giorgio da Rimini, poverino, stiamo facendo aspettare lì da un po'. Giorgio, l'ultima domanda per questo approfondimento sulle multe e parcheggi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio Lasciarò, chiamo da Roma comunque. Ardea. No, volevo dire, io a me tempo, qualche anno fa è successo questo: parcheggio la macchina via Montesanto a Roma, faccio il biglietto di 3,50 euro, per 50 centesimi mi ho fatto per tutte le 8 ore. Vabbè, d'accordo, comunque vado con mia moglie dal dottore, poi fa quello che deve fare, Sì, faccio quello che deve fare, va grande batosta, dice che ha la sclerosi multipla, vabbè, poi si è risolto tutto bene, d'accordo. Ritorno. E purtroppo il dottore è venuto in ritardo, 10 minuti, e trovo il talloncino di 25 euro da pagare. Era la multa o era il saldo al parcheggio? No, era la multa perché tutta che io avevo pagato, perché ho sforato di 10 minuti, 5 minuti, eccetera. Sì, quindi... tant'è vero che poi l'ho trovato, mi sono anche arrabbiato con queste persone, e da lì poi mi è scattata una molla. Allora, dicono che a Roma ci sono circa 1 milione di posti, non fa nulla, mettiamo caso che ne sono 500.000, a 1 euro l'ora per 8 ore fanno la bellezza, ho qui la calcolatrice, bravo Giorgio, 500.000 euro, insomma è una bella somma, dico, per 5 giorni, dico, siamo su una finanziaria. Ma Giorgio, che fine fanno? Guardi, il sindaco Marino, lei lo sa che in questo periodo ce ne ha di gatte da pelare, forse adesso ha altri parcheggi, non ha tempo. Detto questo, Giorgio, il problema è che lei era in totale buona fede e magari in quel caso sicuramente i vigili, anche a fronte di un certificato medico, un occhio lo potevano chiudere, ma ormai la sanzione era stata comminata. Il tema è chi ci marcia, no? E chi quei minuti li gratta ogni giorno e comunque alla fine non fa quello che deve fare, appunto. Bisogna promuovere la cultura della legalità anche e soprattutto quando si parcheggia. Ecco, comunque c'è una risposta. 30 secondi, al problema. Sì, dottor Scotti, che stiamo chiudendo. Allora, il comma 7 dell'articolo 7 del codice della strada prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati a installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie o sotterranei, nonché a interventi di miglioramento del trasporto pubblico locale. Quindi dovrebbero essere adesso i comuni fanno cassa con quello per amministrare la gestione corrente, che è fatta di altre emergenze. Insomma, gli ascoltatori si dividono, c'è il partito a favore dei vigili, il partito naturalmente contro. Dottor Scotti, deve tornare a trovarci. Senz'altro. Grazie. Assolutamente, qua in studio la vogliamo. Guarda, sai da quanti anni combatto contro questa cosa? Ma lui non c'è niente da fare, si fa corteggiare adesso con due donne e non potrà resistere però. Grazie dottor Scotti. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi, come sempre, a Cuore Denari propone delle soluzioni. La soluzione per non prendere multe, naturalmente per chi vive e lavora in città, è andare a piedi, camminare. Cuore e Denari. Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare. Ci arricchisce mentre lo percorriamo. Bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a guardare tutti i giorni i segreti che a causa della routine non riusciamo a vedere. Da Il Cammino di Santiago, di Paolo Coelho. E anche noi, cari amici, come anticipato, vogliamo prestare attenzione al cammino. È un'attività a costo zero che, una volta vinta la pigrizia, ci regala grandi benefici per la nostra salute. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno, dottor Respizzi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Dottor Respizzi, camminare ha un sacco di vantaggi: abbassa il colesterolo, tiene sotto controllo la pressione, anche il rischio di diabete, ma c'è un beneficio anche per il nostro portafoglio. Muoversi a piedi, lasciando la macchina in garage, comporta, secondo alcune stime, un risparmio di circa 700 euro all'anno per persona. Insomma, il cammino è lo sport perfetto per cuore e denari. Che dice, dottor Respizzi? Ma direi assolutamente di sì, confermo quanto da lei affermato. Ci sono mai moltissimi studi in letteratura che dimostrano come l'attività motoria ben fatta, sotto controllo, con tutte le caratteristiche di sicurezza di cui si parla sempre anche in questo programma, è molto vantaggiosa nel ridurre il rischio di sviluppare quelle malattie cosiddette del benessere, ahimè, a questo punto del malessere, perché sono malattie dovute al fatto che ci muoviamo poco, che ci alimentiamo troppo, che i nostri cibi non sono corretti. Quindi cercare di consumare è qualcosa di molto positivo, anche perché in questo caso è un conto economico in cui le uscite sono, per fortuna, non così dispendiose come in tutti gli altri conti economici. È una cosa favorevole. Dottor Respizzi, quindi ai nostri ascoltatori chiediamo di raccontarci se, per una strana ragione, magari per mandare giù la pancetta, o perché avete cambiato lavoro, o perché avete deciso di dare una nuova svolta alla vostra vita, avete iniziato a camminare, un po' come ho fatto io, che ho lasciato la macchina a casa, perché qua intorno alla radio era impossibile parcheggiare, mi sono resa conto che ci mettevo un sacco di tempo, pagavo molte multe, e allora mi sono detta: Nico, sai che ti dico? Che andiamo a piedi. E devo dire, e lo racconto spesso ai miei amici e anche agli ascoltatori, che è un'attività che ci fa star bene e che crea una sorta di piacevole dipendenza, e si scoprono tantissime cose camminando proprio in città, naturalmente anche appoggiandosi magari ai mezzi pubblici. 800 24 00 24, camminate come me, chiamatemi. E però bisogna camminare almeno fra i 5.000 e i 10.000 passi al giorno. Io, da 5 mesi che siamo partite con Cuore e Denari, sto benedetto contapassi. Non l'ho ancora comprato, ma giuro che lo faccio questo weekend. Un po' come succede con le multe, anche per il numero dei passi c'è uno sconto. Dottor Respizzi, mi pare di aver capito che non bisogna farli tutti in una volta, tutti di fila. Assolutamente no. Nel senso che è ancora un grande vantaggio che abbiamo noi come esseri umani, è che io posso alzarmi mattino e fare 10.000 passi e poi andare a lavorare, ma se questi 10.000 passi invece li distribuisco nella giornata non cambia assolutamente niente sul risultato. Devo però tutte le volte che inizio a fare i passi cosiddetti canonici fare in modo che la frequenza cardiaca aumenti di un pochino, perché sennò io faccio un passo e mi siedo, e mi siedo 10.000 volte, evidentemente non ha nessun effetto allenante. Quindi trovarsi delle fasi durante la giornata in cui per 5-10 minuti sottopongo l'organismo a una piccola sollecitazione, cioè camminare a un passo deciso, anche senza contapassi, cara Deborah, se lei fa un calcolo, 10.000 passi sono circa 5 chilometri, sì, e una persona che va a buon passo ci mette circa un'ora. Sì, devo dirle che è la distanza da qui al sole a casa mia, e ci metto un'ora e 10 circa. Perfetto, bravissima, quindi è già fatta. Però deve farlo a un passo piuttosto deciso, nel senso che se no non è allenante, se no vuol dire che mi sposto da un posto all'altro ma non alleno l'apparato cardiovascolare. Quindi qui sotto, arrivi allora, dai. Dai, arrivi allora. Ci proverò, il problema è che all'andata è un po' un problema perché si arriva tutti sudati al lavoro e non è carino. Al ritorno però si può fare più spesso, ottimo. Bravo. 800 24 00 24, ci mettiamo anche, valido anche fare le scale, dottor Respizzi. Assolutamente, assolutamente. assolutamente sì, le scale sono una meraviglia, bisogna evitare gli ascensori il più possibile se non ci sono problemi, si risparmia anche dal punto di vista energetico, meglio di così. Esatto. Dottor Respizzi, il cammino è utile anche come prevenzione per evitare le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, insomma per tenere su le articolazioni e i nostri muscoli, che con il tempo possono scricchiolare un po'. Quindi è una pratica assolutamente da mantenere, da promuovere, ma bisogna anche sapere come camminare. Lei ci ha dato il ritmo, ma dai segnali che noi avvertiamo durante la camminata e dal modo in cui camminiamo possiamo imparare tante cose. Occhio ai vostri piedi. Non ancheggi in quel modo. Io non ancheggio mai. Qualunque cosa faccia non va. Adesso ascolta, devi tenere i piedi in fuori e appoggiare prima i talloni. Spavalda. Dottor Respizzi, ci sono tanti modi di camminare, la camminata è proprio qualcosa che ci identifica e dà delle informazioni importanti sulla nostra postura, ma è anche un segnale predittivo, possiamo dire così, della salute articolare e muscolare futura. Insomma, dimmi come metti i piedi e ti dirò come stai. Dottor Respizzi. Assolutamente sì. Addirittura io direi che l'imprinting sul modo di camminare si ha nell'età adolescenziale, nell'età da bambini, quando si comincia a camminare. E questo è un altro grosso problema della nostra società sedentaria, perché i bambini camminano molto poco, perché vengono portati a scuola, perché sono sempre accompagnati da qualcuno, eccetera. Quindi io sono contrario anche in questo caso, che il bambino può benissimo andare a scuola a piedi. Perché in questo modo il terreno ci dà degli stimoli corretti allo sviluppo di un piede corretto e di un arto superiore corretto, né arto inferiore corretto. Quindi è proprio la sollecitazione meccanica che riceviamo dal terreno che fa in modo che il nostro piede si sviluppi bene. E quindi noi dobbiamo cominciare da lì per avere un buon piede durante l'età matura e un buon piede anche durante l'età senile. Perché sennò in effetti, se una persona non ha mai camminato, non è abituata, quando sollecita il piede, che è uno strumento fantastico per come è costituito da tante ossa, legamenti, muscoli, va in crisi, non è abituato a farlo e quindi non ha quella giusta meccanica, certo, per riuscire a sopportare il peso corporeo. Invece noi vogliamo camminare a lungo, camminare in pieno benessere, ma se qualche malessere avvertite mentre camminate, chiamateci, è tempo di andare a sentire il nostro GR. Ma la storia delle suole e delle scarpe poi me la ricordate di nuovo? Certo che sì! A dopo! Cuore e denari. Su questo brano Nuvole di Einaudi torniamo a parlare di camminata. A volte si cammina con la testa tra le nuvole, ma i piedi devono rimanere ben piantati a terra. E dottor Respizzi, in linea con noi, intanto lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, i nostri piedi raccontano tante cose del nostro modo di camminare, proprio sono loro a volte a lamentarsi e a tenerci, a impedirci di muoverci, di buttarci su questa attività straordinaria che fa bene al cuore e fa bene ai denari. Deborah suggeriva di raccontare ai nostri ascoltatori di guardarsi le suole delle scarpe. Esatto, dottor Respizzi, un giochino che noi facciamo spesso, certo, con lei quando viene in onda, perché certo, dà delle indicazioni importanti. Allora, guardiamo la suola delle scarpe e se notiamo un consumo sulla parte esterna, sul bordo esterno, sulla punta esterna, diciamo, in quel caso è probabile che io abbia un piede cavo, cioè esattamente l'inverso del piatto, un piede troppo arcuato, quelli che hanno praticamente la parte alta protrudente del piede. Se invece troviamo un consumo eccessivo nella parte interna della suola, verso l'interno, tacco e punta anche, in quel caso è molto probabile che una persona abbia un piede piatto, quindi un piede che tende a cadere verso l'interno. E quindi è un'indicazione molto importante di com'è la forma del piede e di come eventualmente poi attuare delle azioni di correzione di questo alterato appoggio. Vogliamo anche chiedere ai nostri ascoltatori di segnalarci eventuali segnali di malessere che avvertiamo proprio dopo o mentre camminiamo. Ad esempio, le statistiche dicono che l'80% delle persone, in maggioranza donne, soffre di problemi ai piedi, ma lamentarsi a volte sono le ginocchia o, perché no, anche la schiena. Intanto raccogliamo qualche stimolo dai nostri ascoltatori e andiamo a Torino. Ci aspetta Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Maria Cristina. Buongiorno. Siamo qua. Allora, io volevo riallacciarmi al discorso che lei ha fatto all'inizio di questo servizio, ovvero io ho deciso di girare a piedi per Torino per un caso, nel senso che dovevo vendere l'auto, sono rimasta per qualche mese senza auto e all'inizio sono stata colta dal panico perché ho detto: oddio, come faccio? In realtà vivo in centro e lavoro in centro, però mi ero abituata a muovermi sempre in auto e il problema è che, come spesso accade, arrivi a destinazione ma non trovi il parcheggio, quindi giri come un pazzo, parcheggi a un quarto d'ora, poi torni ancora indietro e comunque vai avanti e indietro, cammini. E in quei mesi in cui ero senza auto, diciamo che mi sono resa conto che era molto più semplice, perché arrivavo sempre, ero puntuale, non dovevo cercare parcheggio e alla fine ci mettevo lo stesso tempo. E di là ho continuato, quindi giro quasi esclusivamente a piedi. E noi a Torino siamo avvantaggiati che abbiamo anche molti portici, per cui quando c'è il maltempo si cammina ugualmente. Sì, e quindi cammino molto, e però nei casi particolari in cui ho bisogno dell'auto comunque c'è il car sharing, che insomma è una cosa molto comoda e intelligente. Noi coglieremo la palla al balzo, Maria Cristina, magari proprio per approfondire anche lo spirito, la filosofia e le modalità del car sharing in Italia, perché sempre più città si stanno attrezzando anche mettendo a disposizione delle auto, chiamiamole così, un po' pubbliche, a favore appunto della collettività, che in questo modo non hanno problemi di parcheggi, di multe, pagano quello che usano, oppure questo è quello che fanno nelle città i sindaci. Car sharing può anche essere, come dire, condividere l'auto con degli amici. Nicoletta, domattina vienimi a prendere. Ma se sono a piedi, cosa faccio? Come vengo a piedi con te, se no il dottor Respizzi mi sgrida. A parte che io mi massacro i piedi per altri motivi, perché faccio uno sport d'urto, quindi qua c'è un altro tema da affrontare. E a proposito di sport, Deborah scarpa, che va in palestra, a volte usa il tapirulan e ci sono tanti ascoltatori che ci chiedono di delle alternative al cammino. Stiamo pensando ad esempio a tante persone che devono usare la macchina per andare al lavoro, insomma non possono, come Maria Cristina, approfittare di avere il lavoro e la casa vicina, e insomma devono in qualche modo inventarsi altri modi per muoversi. Il tapirulan, lo step, dottor Respizzi, possono essere sostitutivi della camminata? Assolutamente sì, nel senso che il gesto è identico. Oltre al tapirulan, direi appunto anche le macchine ellittiche, queste macchine che sono molto belle, che muovono anche gli arti. Simulano un po' quasi la sciata, no? Brava, sì, una camminata comunque di montagna con pendenze più o meno impegnative. Sicuramente sì, però pensiamo ad una cosa psicologica. Addirittura le macchine più belle hanno davanti un monitor che ti permette di guardare la televisione, sentire canzoni, cose del genere. È molto meglio evidentemente vedere la natura attorno a sé, ove c'è, piuttosto che passeggiare in un ambiente libero invece che in un ambiente chiuso. Vabbè, certo. Però è chiaro che se uno abita in centro Milano e ha tutte queste difficoltà, benissimo, deve iscriversi a una palestra e fare questo e vedrà un mondo virtuale, ma comunque l'allenamento aerobico anche c'è, perché, di sicuro. Guardi, a me piace fare step con la musica, preferisco i corsi, ma mettermi lì a camminare è veramente noioso qualche volta, cioè se solo si fa in palestra, e quindi è chiaro che è meglio mettersi con queste attrezzature moderne, l'auricolare, isolarsi un po'. Però, ma abbiamo un ottimo suggerimento che ci arriva da Enrico da Brescia. Buongiorno Enrico. Sicuramente ricorderà che abbiamo dedicato una puntata a questa disciplina di movimento nuova recente. Enrico. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho deciso a un certo punto di dare un taglio a determinate abitudini, quindi uso il mezzo motorizzato proprio il minimo indispensabile, quindi ho dato spazio alla bicicletta e all'andare in piedi, e in particolare per l'andare a piedi ho quotidianamente praticato, pratico da qualche anno, una nuova disciplina che si chiama Nordic Walking. E qualcuno forse l'avrà già certo, sentita. Ne abbiamo anche parlato molto. Qua, sì. Ecco, io poi ho... È la camminata con i bastoncini, esatto, molti la raccontano così. Perché... Sì, sono stato talmente appassionato che poi ho fatto un concorso per istruttore. Quindi io, come tante altre persone, operiamo sul territorio per promuovere questo tipo di camminata. Per qualcuno rimane ovviamente un po' scettico su questo uso di bastoncini. Però vi dico che per esperienza personale veramente porta ottimi benefici, certo, proprio a livello posturale. Ma chi è che è scettico, Enrico, mi scusi, chi non fa niente dalla mattina no, alla sera? No, perché camminare, vedere uno in centro sì, che usa questi bastoncini può essere un po' ingombrante. Un po' ingombrante, magari uno si vergogna. Però Enrico, io ho notato che solitamente le persone che praticano il Nordic Walking sono persone solari, diventano più simpatiche, sono più positive, saranno i bastoncini, sarà la camminata, sarà che no, ci si incontra, quindi bravo in Enrico da Brescia, grazie per averci chiamato, dottor Respizzi. Sì. Beh, se uno non vuole usare i bastoncini è importante però ricordarsi che oltre alle gambe e quindi ai piedi abbiamo anche le braccia. Assolutamente, è quello che dicevo prima anche riguardo le macchine ellittiche che ci sono in palestra, la logica sarebbe quella di attivare non solo gli arti inferiori ma anche gli arti superiori. Quindi se il bastoncino uno si sente in imbarazzo e ridicolo, d'accordo, ci sta, è molto meno imbarazzante ad esempio in montagna. D'estate si vedono torme di persone che vanno con i bastoncini, che sono tutte contente di farlo, in quel caso dà anche un aiuto, ma soprattutto costringe, oltre alle arti superiori, anche la cassa toracica a espandersi di più, quindi a fare in modo che anche la respirazione sia più corretta. Quindi diciamo che, pur essendo noi dei bipedi, in questi casi diventiamo dei quadrupedi ed è anche molto più sicuro per la camminata, appunto, soprattutto in condizioni più critiche, tipo la montagna, sentieri di montagna, sentieri lungomare, cose del genere. Quindi in vacanza per me è molto consigliato. È chiaro che a Milano, in via Monterosa, dove siete voi, se uno passa con i bastoncini viene considerato un originale. Sì, domani dobbiamo proverò. Anche cominciare ad imparare a farci un po' gli affari nostri, pensiamo ai nostri esatto. movimenti, allo sport che non facciamo. Beh, fino a qualche tempo fa l'utilizzo del bastone era una cosa elegante, esatto. e adesso ovviamente è una cosa... Allora, a proposito di cose che cambiano nel tempo, dottore Spizzi, le faccio sentire quello che ci chiede Giovanna dalla provincia di Lodi, perché sono assolutamente certa che stia interpretando la curiosità di molti e anche la mia. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. 800 per l'entusiasmo con cui conducete tutti i giorni questa trasmissione. Ha visto? Grazie. No, grazie a lei che se ne accorge. Siamo molto contente. Bene. Ci dica. Io voglio chiedere informazioni su queste scarpe che hanno le suole dondolanti, al di là delle marche autorizzate più famose, anche le sottomarche, però... Ci sono un sacco di televendite anche che esatto. su questo prodotto. Sì. E io ce li ho e le ho usate imperterrita, anzi molto felice per un anno. Dopodiché ho sentito qualche dolore fastidioso e sono andata da un osteopata e mi ha detto ma guardi che forse queste scarpe... Allora, un po' preso da questa influenza dell'osteopata e un po' io che non mi sentivo più a mio agio con queste scarpe, rimango nel dubbio quando le uso. E le uso molto meno rispetto a prima, di cui prima tutti i giorni, adesso una volta ogni tanto. E una volta ogni tanto mi danno un po' fastidio. Volevo sapere una risposta certo. competente. Dottor Respizzi, allora, queste scarpette. Scarpe basculanti. Bene, scarpe. Dunque, ecco. Diciamo che tanto sono brutte come il peccato, questo dal punto di vista estetico, possiamo dirlo senza pietà. Se sì, diciamo 5 chilometri, 10 qua, diciamo, a piedi, brutte, insomma, diciamo che non sono donanti. Vabbè. Ecco. Non esiste nulla di dimostrato scientificamente sull'utilizzo, sul vantaggio di avere queste scarpe. Quindi poter dire che sono buone o che sono cattive è impossibile in questo momento, nel senso che non c'è nulla di dimostrato. Per la verità, andando a buon senso, ma proprio a buon senso anche per dare un contributo alla nostra ascoltatrice, noi tendenzialmente siamo bipedi e quindi andiamo con i nostri bei piedi piatti sul terreno. La scarpa ideale è quella che ci separa semplicemente dal terreno, quindi diciamo un sandalo tipo frate, ecco, per dare un'idea. Metterci sotto questo rialzo è uno stimolo proprio accettivo sicuramente molto forte, vuol dire che ci costringe a sviluppare la capacità di equilibrio, perché sennò cadiamo in avanti o in indietro, e quindi questo è quanto viene sostenuto come vantaggioso, perché questo stimola, migliora la capacità di equilibrio e quindi ti fa star meglio. Francamente però, oltre a questo, io direi che se la signora le trova non confortevoli, le lasci pure nell'armadio, non le usi. Che... ogni tanto ci fa dei giretti se vuole, perché però insomma, senza insistere, andiamo a Roma, c'è Gemma, buongiorno. Quante donne stamattina? Buongiorno. Come va? Insomma, con i piedi non va tanto bene, perché io sono sempre stata una persona che camminava tanto, poi per un periodo ho fatto una vita sedentaria, e poi ho ricominciato a camminare, forse esagerato, perché mi fa male il piede destro. Ma il piede sa, è lungo. Il piccolo trattamento, mi ha messo dei nastri sotto il piede, questi cerotti così, quindi ecco, tutti colorati. A far male. Allora, Gemma, io non ho capito perché il piede, anche quello di Cenerentola, è lungo, cioè ha una parte anteriore, una parte posteriore, una fascia che unisce le due. Dove le fa male? Io non ho capito. Le fa male il destro? L'arco interno, dalla parte interna, e un pochino anche il tallone. In passato ho avuto uno sterone, cioè giocando a tennis tanti anni fa mi è venuto un dolore che poi ho dovuto curare con i raggi, gli ultrafori, poi una soletta così. Con le terapie fisiche. Allora, dottor Respizzi, la localizzazione del dolore al piede è molto importante per lei, per questo ho fatto questa domanda. Assolutamente. Ecco, per agevolarla, dottor Respizzi. Assolutamente. È contento? Quello che descrive la signora, che vorrei sapere anche quanti anni ha. 58. Perfetto. Ok, ecco, così non lo sappiamo. È un po' sfacciato questo dottor Respizzi. Noi dottori ci tocca essere sfacciati. Quello che lei descrive, stando anche la storia precedente di questo sperone che si chiama spina calcaneale, non è scomparso, cara signora, purtroppo la spina calcaneale, perché c'è. È una protuberanza ossea e rimane lì, non dava fastidio. Quindi evidentemente probabilmente è successo qualcosa in questo periodo, per cui il piede è stato un po' più sollecitato e si è un po' riattivata un'infiammazione in quella zona lì che si chiama fascia plantare. Le ripeto, sono al telefono, siamo lontani 600 chilometri, ma da come me lo descrive potrebbe essere questo aspetto, perché io consiglierei un approfondimento con una persona esperta di patologie del piede che prova ad andare a verificare se si è sviluppata una fascite plantare. Il sospetto potrebbe essere quello. Dottor Respizzi, allora, qualche dolorino, soprattutto se riprendiamo a camminare o iniziamo a camminare dopo tanta sedentarietà, lo mettiamo in conto, giusto? Dobbiamo anche un po' resistere, stringere i denti. Ma in 30 secondi mi dica quando invece questi dolorini devono così invitarci a andare un pochino più a fondo al problema. Ok. Se io riprendo a camminare dopo tanto tempo e ho un po' di dolori diffusi, non ben individuati nel piede, non è niente di grave, il piede si sta riallenando. Se nel giro di una settimana, 10 giorni, questi dolorini scompaiono utilizzando scarpe comode, eccetera, siamo tranquilli che non è successo niente, era soltanto un assestamento nuovo del piede. Se invece un dolore è più localizzato in un punto specifico, come descriveva adesso l'ascoltatrice, e quindi è persistente e magari comincia a dar fastidio anche quando sono di notte, sono sdraiato nel letto, in quel caso è un campanello d'allarme e devo approfondire in maniera più specifica con un medico che cosa sta succedendo al mio piede. E allora, hai sentito quante informazioni interessanti? Ne dobbiamo dare un'ultima. Il dottor Respizzi lo vedremo anche al Salone del Risparmio. Ce lo portiamo? Dottor Respizzi, le facciamo un invito. A me piace spendere, mica risparmiare. Come? A me piace spendere. Ma... guardi che bene, così dopo allora, il Salone del Risparmio ci invita a pranzo. Molto va bene, bene. Volentieri. Okay, dai che hai fatta. Allora, quando è che è? A fine marzo, domani, se lei si mette all'ascolto di Cuore e Denari dalle 12:10 in avanti, le raccontiamo tutto. Avremo anche il tema del lungo termine, per cui dobbiamo preservare anche le nostre gambe per vivere più a lungo e bene, no? Allora magari vi chiamo come ascoltatore. Bravo, bravo, ma grazie dottor Respizzi. Ma prima di salutarci. non è nel mio e nel tuo, ma di chi è questo super compleanno? È di Laura Vanossi. Brava, giovane, bella, in gamba, chi più ne ha più ne metta. Noi adoriamo i nostri assistenti al programma, per ma cui... dobbiamo salutarvi perché esatto. Carmelo ci toglie la esatto. linea. Esatto, noi ce la andiamo a sbaciucchiare in privato. Grazie a tutti, a domani.